Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa è la settimana tradizionalmente dedicata al confettone, perché fra pochi giorni, il 3 di aprile, si apre a Bologna la Fiera del Libro per Ragazzi, Bologna Children's Book Fair, che è arrivata alla 54esima edizione, quindi adesso parliamo di libri per ragazzi, o meglio parliamo di questo settore. La fiera si svolge nell'area di Bologna Fiere, dove però possono accedere solo gli operatori, e proseguirà fino al 6 di aprile. Questo è l'appuntamento più importante al mondo nel settore dell'editoria per ragazzi, che è un settore molto importante per tutta l'editoria, perché è uno dei settori più dinamici, nei quali si vede meno o non si vede affatto la crisi. Quest'anno ci saranno 1200 espositori provenienti da 75 paesi del mondo, gli ospiti d'onore saranno la Catalogna e le Isole Baleari. E accanto alla fiera ci sono poi moltissimi appuntamenti che possono interessare tutti i curiosi lettori, appuntamenti ormai molto importanti, per esempio la mostra degli illustratori, ci saranno dei premi e tanti incontri in città. Bologna in questo periodo diventa una vera e propria città del libro per ragazzi, con oltre 25 mostre, decine di incontri e laboratori per le scuole e per il pubblico. Dicevo dell'importanza del settore. Fra il 2010 e il 2015, per esempio, la produzione del libro è tendenzialmente rimasta stabile, ma quella del libro per ragazzi è cresciuta in maniera molto significativa, più 37,2%, e questa crescita, fra l'altro, un altro dato positivo, coinvolge anche i piccoli e medi editori, quindi un settore importante e un appuntamento altrettanto significativo. E allora oggi vi voglio parlare in questa occasione di un progetto di una scuola di lettura nata a Milano e rivolta proprio ai ragazzi delle scuole. È un progetto che si è avviato l'anno scorso nell'ambito di una serie di iniziative curate dall'associazione Quartieri Tranquilli, che è un'associazione che è stata avviata per impulso della giornalista Lina Sottis, per creare nuovi programmi di volontariato che facciano diventare più vivibili, più solidali e più affettuosi i quartieri di Milano. E appunto all'interno delle varie attività ce n'è una dedicata alla lettura dei bambini, dei ragazzi. Si chiama progetto Libeeri, il piacere di leggere, capire, immaginare, ed è curata da una protagonista dell'editoria italiana, che è Donatella Barbieri. Donatella Barbieri è stata direttore editoriale di Spelling & Kufer, presidente di Frassinelli e dell'agenzia ALI, ed è anche insegna anche al master di Urbino per i formatori editoriali, quindi un'autentica protagonista del mondo dell'editoria, alla quale rivolgiamo adesso alcune domande su questa iniziativa avviata a Milano. Buonasera Donatella Barbieri. Buonasera a lei. Donatella Barbieri, parliamo allora di questa iniziativa alla quale ho accennato, un'iniziativa per diffondere il gusto della lettura presso gli scolari e gli studenti delle scuole elementari e medie. Lei l'ha provato a Milano. In che cosa consiste questo esperimento? È un progetto che in realtà è nato in seguito a una richiesta dell'Associazione Quartieri Tranquilli, che lei credo conosca bene, e che è un'associazione che opera su Milano, sui vari quartieri della città, per individuare i problemi e offrire aiuto. E la presidente, che è Lina Sottis, mi ha chiesto di studiare un progetto, i libri, sui vari quartieri della città. E dopo una prima idea di un progetto che probabilmente poi svilupperemo, ho pensato appunto che ci sono tante scuole di scrittura e che io avrei voluto fare invece una scuola di lettura. Questa idea è piaciuta non solo a Lina Sottis, che l'ha sposata per l'Associazione dei Quartieri Tranquilli, quindi per il nostro progetto I Libri, ma è piaciuta anche alla preside di quattro scuole milanesi, che mi ha chiesto di fare questa scuola di lettura in queste quattro scuole. Io seguo e ho seguito, nel presentare il progetto già agli insegnanti e alla preside, ho seguito un percorso editoriale, cioè la scuola di lettura è intesa come seguire proprio il percorso editoriale, partendo da che cos'è una casa editrice, che cosa fa un editore, quindi il mestiere, la professione, come nasce un libro, come si crea il rapporto fra libro e lettore e via di seguito. E qual è stata la reazione dei ragazzi e dei bambini a questa iniziativa? È stata abbastanza sorprendente, almeno per me, perché ho visto veramente una grande curiosità. Intanto il discorso delle professioni, già mi avevano allertato gli insegnanti su questo, è un discorso che interessa molto, perché di professione si parla poco in giro, voglio dire, cioè i bambini e i ragazzini sanno poco delle professioni, quindi lo spunto per parlare di una professione come quella dell'editore e da lì poi collegarsi col discorso dei libri, ho visto che incuriosiva sia i più piccoli delle elementari sia quelle delle medie. Ovviamente a ogni ora, avendo io a che fare con un'età diversa a seconda delle varie classi, l'esposizione si modificava, diventava più semplice per i bambini più piccoli, un po' più, diciamo, approfondita per i ragazzini delle medie. Quindi la curiosità mi ha molto colpito, soprattutto mi ha colpito il fatto che la maggior parte di queste classi, tante classi, perché quattro scuole sono più di 30 classi, ebbene nella maggior parte, direi che nella totalità di queste classi, i bambini per la maggioranza preferiscono il libro cartaceo al libro elettronico, mentre io mi aspettavo esattamente l'opposto. Questo ha fatto parte della sorpresa, della bella sorpresa che ho avuto. È una sorpresa che ormai si ha in tanti ambienti, anche i ragazzi più grandi pare che preferiscano, e non soltanto in Italia, il libro cartaceo, quello e quello elettronico. E invece i docenti come hanno reagito? Che cosa ha insegnato loro questa esperienza? Si sono accorti che si può accendere il gusto della lettura in maniera un po' diversa, un po' inconsueta? Io spero, devo dire che io ho chiesto, quando la preside mi ha proposto di fare questa scuola di lettura nelle quattro scuole, ho chiesto una riunione con i docenti, con gli insegnanti, per sottoporre il mio progetto e avere la loro approvazione. Questo io tenevo molto, perché tenevo molto anche a presentarmi agli insegnanti e poi in seguito agli studenti, a presentarmi semplicemente come un editore che parla di libri. Quindi io chiarivo che non sono un insegnante che va a insegnare. Gli insegnanti mi sono sembrati incuriositi anche loro dal percorso editoriale, perché in effetti seguire la nascita del libro proprio dalla sua casa, cioè che non a caso si chiama casa editrice, perché è veramente una casa nella quale abitano gli editori, ma gli scrittori e le loro opere. Quindi da lì in avanti il percorso mi sembra che abbia interessato gli insegnanti e che quindi questo abbia avvicinato anche forse un po' di più anche gli insegnanti alla enorme varietà del mondo dei libri, che poi è quello così che caratterizza l'universo straordinario dei libri e della lettura. E all'interno di questo percorso lei ha fatto scegliere dei libri, mi pare di aver letto, sì, assieme ai docenti, non so. Ecco, come ritiene che sia stata questa scelta? La sorpresa qualcuno dei titoli che è stato scelto o il modo in cui è stato trattato? Ah, direi che hanno scelto, appunto fatto scegliere a loro, hanno scelto dei titoli, alcuni classici, e però io ho scoperto dalle scelte che hanno fatto gli insegnanti, per esempio ho scoperto dei libri che non conoscevo per i ragazzi, pur essendo amica degli editori per i ragazzi, per i bambini, essendo fra noi tutti colleghi, fra noi editori, ho scoperto dei libri che non conoscevo che sono bellissimi, veramente molto belli. Quindi le scelte sono state un po' determinate anche dal fatto che gli insegnanti hanno scelto questi libri che io incominciavo a leggere alla fine della mia ora di intervento e di percorso editoriale, ma che gli studenti proseguivano poi nella lettura con gli insegnanti in classe secondo un percorso didattico che gli insegnanti volevano poi fare con questi libri. Quindi diciamo che sono state delle scelte abbastanza classiche, ma comunque anche all'insegna, diciamo, della piacevolezza. Per esempio, c'è stata una scelta che non poteva che essere di questa grandissima scrittrice che i bambini e i ragazzini adorano, che è la Bianca Pizzorno. Uno dei libri che era stato scelto per le scuole medie, e quello ovviamente è una scelta di un classico, perché la Bianca Pizzorno si può considerare tale a tutti gli effetti come autrice, ma anche di una lettura piacevole, insomma, quindi di svago, diciamo. In questa scuola lei ha insistito sul fatto che i libri fanno compagnia, mi pare di aver capito che lei sì. voleva dire loro: attenzione ragazzi, che i libri possono divertire, possono aiutarci a capire sì. la realtà, sono vostri amici. Ecco, questo messaggio è passato, i ragazzi hanno avuto, è nato un rapporto diverso con il libro alla fine di questa scuola? Ma io spero, non lo so se poi è nato veramente, ma lo spero, anche perché la reazione a questo anche poco tempo che abbiamo passato insieme in fondo è stata una reazione positiva. Alla fine dell'ora mi hanno chiesto, quasi tutti mi hanno chiesto, ma tu ritorni, tu Donatella ritorni? E io ho detto sì, ritornerò quando avrete finito di leggere i libri con gli insegnanti e commenteremo insieme quello che voi avrete letto. Quindi io spero che ci sia stato comunque, diciamo, una sensibilizzazione al fatto che basta allungare una mano per trovare un libro, se si ha un momento di malinconia o di solitudine, se allunga una mano, si prende un libro. Il libro ti fa compagnia e non ti chiede niente, solo di essere letto. Grazie a Donatella Barbieri, animatrice della scuola di lettura presso l'associazione Quartieri Tranquilli di Milano. Buona serata. Grazie mille a lei e buonasera. E con questo sospendiamo per un attimo, ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un grande protagonista della cultura del Novecento e di un movimento culturale di cui egli fu uno dei rappresentanti maggiori. Era un personaggio molto discusso, non simpatico a tutti, capace di accendere grandi passioni ma anche antipatie altrettanto forti. Parlo di Jean-Paul Sartre, uno dei padri dell'esistenzialismo. La parabola sua e del movimento filosofico al quale egli diede vita sono raccontate da Sarah Bakewell, che qualche anno fa ebbe un grande successo con un libro molto divulgativo su Montaigne, ne parlammo anche in questa trasmissione. Questo su Sartre si intitola Al caffè degli esistenzialisti, libertà, essere e cocktail, è tradotto da Michele Zurlo per Fazzi, 470 pagine, 20 euro. Il libro prende le mosse appunto da un caffè, il caffè Bédégaz a Montparnasse, in cui tre giovani intellettuali sorseggiano in una giornata tra il 1932 e il 33 un cocktail all'albicocca, specialità della casa. I tre sono appunto Sartre, Simone de Beauvoir, la fidanzata di Sartre che poi avrebbe rievocato proprio questo episodio, e un amico e compagno di scuola di Sartre, il futuro grande politologo Raymond Aron, che con Sartre avrebbe però poi rotto per le ben diverse posizioni politiche, filocomunista Sartre e liberale Aron, salvo poi riconciliarsi i due negli ultimissimi anni di vita. Aaron, appunto, in quell'anno è appena tornato da Berlino, dove studiava, e presenta agli amici la scoperta filosofica che lì ha effettuato, cioè la fenomenologia. E da qui parte un affascinante excursus nella storia della filosofia del Novecento, che ci farà incontrare i maggiori esponenti del pensiero dello scorso secolo: Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty e naturalmente Sartre, la De Beauvoir e poi tutto il filone dell'esistenzialismo. Ma il libro, come quello su Montaigne, è dedicato a tutti. Si legge quasi come un romanzo, anche per la passione che per Sartre ha scoperto di avere l'autrice e che le consente di rendere comprensibile a un largo pubblico uno degli sviluppi più interessanti del pensiero filosofico moderno. Soprattutto all'autrice interessa mettere in luce l'apporto dei singoli pensatori. Scrive infatti che le idee sono interessanti, ma le persone lo sono di gran lunga di più. Qui la Bakewell descrive a fondo queste figure, facendoci così scoprire le ragioni d'attualità del loro insegnamento, il quale, conclude, ripropone come dominante il tema della libertà. Scrive a questo proposito l'autrice che la libertà risulta essere il maggiore rompicapo dei primi anni del XXI secolo. Ciò che non possiamo più fare oggi è darla per scontata, e aggiunge: molte delle nostre incertezze sulla libertà non sono altro che incertezze sul nostro essere fondamentale. Riviste e libri scientifici ci bombardano con la notizia che siamo fuori controllo, che non siamo altro che una massa di risposte irrazionali ma statisticamente prevedibili, velata dalla mera illusione di una mente cosciente capace di governare. Idee del genere, appunto, ci scagionano perché, aggiungo io, fanno venire meno l'idea che siamo veramente liberi. Queste idee, scrive la Bakewell, ci salvano dall'angoscia esistenziale che sopraggiunge allorché ci consideriamo degli agenti liberi, responsabili di ciò che facciamo. E quindi, conclude la Bakewell, forse abbiamo bisogno degli esistenzialisti che ci dimostrano il contrario più di quanto credessimo. Una delle opere più importanti e impegnative di Sartre è L'essere e il nulla, un libro del 1943 che così Bakewell ci presenta. L'essere e il nulla è un'opera ricca e stimolante. Sartre combina le sue letture di Husserl, Heidegger, Hegel e Kierkegaard con numerosi aneddoti ed esempi spesso basati su fatti realmente accaduti che coinvolgevano i suoi compagni. L'essere e il nulla è un'opera incompiuta, ci ricorda la Bakewell. Questa opera è pubblicata in Italia dal Saggiatore, 722 pagine, 22 euro, ed è stato tradotto da Giuseppe Delbo. Sempre il Saggiatore pubblica un altro testo di Sartre, meno impegnativo ma molto godibile. È un testo che racconta di un suo viaggio che avvenne in Italia nel 1951. Il libro si intitola La regina Albermarle o L'ultimo turista, 190 pagine, 21 euro, ed è tradotto da Sergio Azzeni. Nell'autunno di quell'anno Sartre fu a Roma, Napoli, Capri e Venezia, e qui scrisse appunti e note che erano destinate a diventare un libro. Il manoscritto del libro definitivo non fu mai ritrovato, ma le note sì, e sono state curate per pubblicarle in questo libro da Arlette Elkann Sartre, che è la figlia adottiva dello scrittore, e queste note ci consentono di ricavare le impressioni del filosofo e scrittore sul nostro paese, ispirate alle varie osservazioni che egli compì, per esempio queste che vi propongo su Venezia. A Venezia i veneziani sono a casa propria e basta un cielo un po' dolce come stamane, con una luce un po' carezzevole, allegra come un sorriso, perché il turista si senta un po' meno turista, quasi veneziano. Altrove la strada maestra lo trasporta, lo depone in una borgata, lo riprende e lo porta via. Qui le strade non esistono. La città si è edificata contro le grandi migrazioni continentali, al di fuori delle vie dell'invasione barbara. Fu talvolta un porto d'arrivo, più spesso un porto di partenza o di collegamento, ma un luogo di passaggio mai. Nessun movimento l'attraversa, nessun impulso le viene comunicato dal di fuori. Tutte le forze terrestri vengono a morire nell'acqua che la circonda, senza toccarla. I veneziani hanno solcato l'universo, ma l'universo non ha mai attraversato Venezia. A 20 leghe da qui, sul continente, le strade rombano, corrono, sobbalzano. Venezia immobile fabbrica a se stessa e per suo uso le proprie misure, le proprie distanze, le proprie velocità. Le sue calli sono locali. Nessuna nasce fuori, nessuna finisce all'esterno. Non paiono fatte per andare da un punto a un altro. Non conducono a nulla e quando se ne prende una, non si è mai certi di non essere costretti a tornare sui propri passi. Fini e sinuose, le calli paiono un prodotto dell'artificio, ben più degli stretti vicoli napoletani, la penombra, la sottigliezza oziosa, l'inutilità apparente, danno loro un aspetto artefatto, e ciò nonostante, o forse proprio perciò, mantengono fra i muri rosa questa indifferenza dei deserti e del mare. Inerti e sonnolente, paiono lamine prelevate dalla crosta terrestre prima della creazione delle reti stradali. E da Venezia torniamo a Parigi, la Parigi di Sartre, la De Beauvoir, di cui pure si parla nel libro di Serena Dandini, Avremo sempre Parigi, passeggiate sentimentali in disordine alfabetico, pubblicato da Rizzoli, 432 pagine, 20 euro, questo è un libro alfabetico per l'appunto, con molte illustrazioni, che racconta la storia d'amore, così la definisce l'autrice, con Parigi, una città nella quale, scrive, tutto si sovrappone e nulla si distrugge. Nonostante la violenza del terrorismo, aggiunge, che sembrava aver mutato per sempre i connotati e il carattere dei suoi cittadini, l'esprit del luogo riemerge sempre dalle tragedie che rimangono incastonate nei marciapiedi e nell'anima delle persone che continueranno a calpestarli. E allora si comincia con Arrondissement, si conclude con Zinc, che ci introduce ai banconi dei bistrò, e in mezzo tanti luoghi e personaggi. Sentiamo per esempio dal libro queste righe sul legame strettissimo tra la città e i miti letterari che l'hanno vissuta, attraversata e descritta. È inutile resistere, bisogna rassegnarsi. Le vere guide turistiche della città sono i romanzi degli autori che l'hanno amata prima di noi e descritta nei minimi particolari, come pittori dediti al ritratto di una donna da conquistare. Ogni arrondissement ha le sue versioni romanzesche. Oggi Belleville non sarebbe la stessa senza i libri di Daniel Pennac, che hanno trasformato questo quartiere multietnico e vitale in un vero eroe letterario. Mentre Montparnasse e le sue brasserie perderebbero molto del loro fascino senza i pellegrinaggi che Ernest Hemingway ci ha descritto nei romanzi che ha ambientato in città, gli artisti ci prendono per mano. Sono gli angeli custodi silenziosi delle nostre passeggiate. Non c'è strada, lungo fiume, bistrò o monumento che non sia stato evocato, raccontato e vissuto in un libro. A Parigi, il passato e il presente si sovrappongono come gli stili architettonici in un susseguirsi di strati, autentiche ere geologiche impastate di ricordi che si offrono ai nostri occhi incantati di visitatori casuali. Come non cogliere il fantasma di Molière tra le strade che circondano il Palais Royal? Il commediografo, che Luigi XIV amava almeno quanto il suo bastone da passeggio, abitava al numero civico 40 di Rue de Richelieu, in un palazzetto che aveva arredato con sfarzo dopo gli incassi dei suoi successi teatrali. Un protagonista della Parigi artistica, dove iniziò la sua carriera di attore pur non essendo nato a Parigi, è Gérard Depardieu, che ha scritto per edizioni Clichy Innocente, 164 pagine, 15 euro, tradotto da Paola Checcoli. Questa è una serie di riflessioni senza peli sulla lingua, nelle quali l'attore affronta vari temi, per esempio l'amicizia, il potere, che per Depardieu è soltanto follia, una follia che sta agli occhi dell'autore distruggendo la Francia, quella Francia che egli tanto ama. In Francia non c'è più libertà, di eguaglianza non parliamo, né forse resiste, aggiunge solo un po' di fratellanza. Le osservazioni sono a ruota libera, molto caustiche, espressione della personalità spesso sopra le righe di una personalità che resta molto amato sugli schermi. Adesso, come sapete, molto vicino a Putin, che trova molto meno scandaloso da frequentare rispetto, scrive, ai fratelli Kennedy. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il titolo di un grandissimo scrittore del Novecento italiano, Leonardo Sciascia, che Adelphi sta ripubblicando. Adesso ripropone A futura memoria, se la memoria è un futuro, 206 pagine, 24 euro. Questo è un libro del 1989, l'anno in cui Leonardo Sciascia morì, in cui lo scrittore siciliano raccolse alcuni dei suoi più celebri interventi sui vari giornali italiani, soprattutto L'Espresso e Il Corriere della Sera, scritti nei 10 anni precedenti. Poi segnalo un romanzo di Alberto Schiavone, Ogni spazio felice, questo è pubblicato da Guanda, 240 pagine, 16 euro, e descrive la settimana di una famiglia apparentemente qualunque nella quale la madre ritroverà la forza per reagire e salvare proprio la sua famiglia. Vi segnalo poi il libro di una esordiente, Lisa Luvarà, Un albero al contrario, una ragazza senza radici e una famiglia come nessun'altra. Questo è pubblicato da Rizzoli, 322 pagine, ed è un libro ispirato all'esperienza dell'autrice che è stata presa in affido a 12 anni dalla famiglia che ormai considera come sua. E di questo tema, dopo un intenso dibattito su una piattaforma di crowdfunding, parla il libro. Infine un giallo di ambientazione parmense, l'autore è Alberto Garlini, il libro si intitola Fratello Unico, è pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 18 euro, l'investigatore qui è Saulo Visoni, un investigatore non troppo dilettante che indagherà assieme all'imprevedibile assistente Margherita, reclutata sulla base di un colloquio che ha per tema un libro della Austin, indagherà appunto su un delitto di ambientazione provinciale. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.